America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Siamo all'ultimo giorno della carrellata 2012 e ciascuno di voi, soprattutto se avete ascoltato le altre puntate, spero che l'abbiate fatto, si sarà accorto che mancava un tema forte, un tema chiave, il tema del Medio Oriente, del Nord Africa, della primavera araba. Certo, abbiamo avuto un 2011 ancora più importante, le primavere arabe sono esplose, è stato ucciso Osama Bin Laden, Gheddafi anche lui ucciso, Hosni Mubarak fuori dalla scena, il ritiro delle truppe americane in Iraq, l'avvio di un progressivo disimpegno in Afghanistan. Insomma, sembrava che il 2012 sarebbe stato molto più morbido, che la fase più acuta delle tensioni nell'area potesse essere archiviata. Non è stato così, perché poi i problemi nell'area, diciamo, Nord Africa, Medio Oriente, sono continuati. L'amministrazione Obama si è dedicata soprattutto alla questione siriana, che è esplosa, e poi al conflitto fra israeliani e palestinesi, al voto alle Nazioni Unite, quello recente, un voto storico che è stato però molto controverso, alla questione iraniana che continua a procedere verso un approvvigionamento di armi atomiche pericolosissime, devo dire, per gli equilibri internazionali, che cambia comunque la situazione geopolitica. Dunque, cosa succede poi? Che nell'anniversario dell'11 settembre si scatena la piazza araba contro gli Stati Uniti e questa protesta culmina con un fatto gravissimo: l'uccisione a Bengasi dell'ambasciatore americano Chris Stevens, e dopo quello che ormai tutti sono convinti sia stato un attacco terroristico premeditato. Riascoltiamo la cronaca di quella giornata. America 24, 13 settembre 2012. L'attacco violento, sanguinoso a Bengasi, a 55 giorni dalle elezioni, l'America è entrata in una crisi di sicurezza nazionale, in una grave crisi di sicurezza nazionale. Non c'è più alcun dubbio ormai che l'attacco al consolato di Bengasi, che ha ucciso l'ambasciatore Christopher Stevens e altri tre diplomatici americani, sia stato premeditato da una frangia terroristica, forse ispirata o legata a Al-Qaeda. La motivazione, diciamo, superficiale di questi attacchi la conosciamo. Si dice che sia stata una reazione a un video che insultava il Corano e Maometto. Muhammad is Allah's messenger and the Quran is our constitution. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Abbiamo trovato degli spezzoni di questo video, ve l'ho fatto sentire, lo abbiamo visto. È un video stupido, è un video malfatto, è un video poco intelligente, davvero realizzato in modo pedestre, ecco, anche da un punto di vista tecnico, da un punto di vista del filmato. Stupisce che questo video possa davvero aver avuto questo impatto. Mi dicevano che quando è stato proiettato per la prima volta a Los Angeles c'erano forse 10 persone a vederlo, non è mai apparso in una sala, è stato soltanto su internet, e solo quando è stato tradotto che poi ha infiammato gli islamici e ha provocato le dimostrazioni. Facciamo subito una distinzione: la dimostrazione al Cairo è stata una dimostrazione davvero popolare, forse anche istigata dallo stesso governo guidato dal presidente Morsi, della Fratellanza Islamica. Dal Cairo non ci sono state parole contro le dimostrazioni, ma addirittura una richiesta di scuse formali per questo video di questo signore che si chiama Sam Bessil, che è un israeliano che vive in America, che ha raccolto fondi qua e là per poterlo realizzare. Adesso si nasconde, ha chiesto scusa, dice che non si rendeva conto che potesse suscitare tali reazioni. The United States condemns in the strongest terms this outrageous and shocking attack. We're working with the government of Libya to secure our diplomats, and make no mistake, we will work with the Libyan government to bring to justice the killers who attacked our people. Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, intervenuto ieri mattina, ha parlato dal Giardino delle Rose, al suo fianco Hillary Clinton. Devo dire un momento piuttosto solenne, un momento di grande emozione, anche se Obama è apparso businesslike, piuttosto freddo nel descrivere la dinamica degli eventi. Ieri ha detto: quattro straordinari servitori dello Stato sono stati uccisi in un attacco terroristico a Bengasi, tra questi il nostro ambasciatore Chris Stevens. Gli Stati Uniti condannano questo atto vergognoso per il quale non c'è giustificazione, lavoreranno insieme al governo libico per consegnare alla giustizia gli esecutori di questo attentato. Make no mistake, ha detto Obama, non fate errori, giustizia sarà fatta. E devo dire che è vero che c'era molta confusione, perché l'amministrazione a un certo punto, forse intimorita dall'idea che potesse crollare il loro impianto medio orientale, si è chiusa a riccio. Peggio, ha fatto disinformazione. Mi ricordo come se fosse oggi, me lo ricordo, era una domenica mattina, lo vedevo in televisione, e Susan Rice, l'ambasciatore americano alle Nazioni Unite, intervistata da David Gregory a Meet the Press, ha negato che l'attacco fosse stato premeditato, era una protesta spontanea, dice, determinata da quel famoso video in cui si prendeva in giro l'Islam. Riascoltiamolo. America 24, 17 settembre 2012. What happened in Benghazi was in fact initially a spontaneous reaction to what had just transpired hours before in Cairo. Ecco, avete sentito Susan Rice, intervistata ieri mattina da David Gregory a Meet the Press su NBC, dice: beh, c'è un'indagine dell'FBI in corso, ma le informazioni che abbiamo ora ci dicono che quello che è accaduto a Benghazi è stato inizialmente una reazione spontanea allo stesso video che ha provocato le proteste al Cairo. Crediamo che alcuni estremisti abbiano poi approfittato della situazione e si siano recati al consolato con armi pesanti, trasformando così la protesta in un episodio più grave. Ecco, una tesi dunque è molto diversa da quella delle autorità libiche. Non si esclude naturalmente che ci sia stato un attacco premeditato, però gli americani per ora non hanno ancora la sicurezza. Ecco, c'è da chiedersi se un gruppo che reagiva in modo spontaneo a quella che era stata percepita come un'offesa contro la religione musulmana si organizzasse improvvisamente con delle armi, con delle mitragliatrici, con delle granate, con dei razzi. Ecco, perché c'è questa posizione americana? Perché dov'era l'intelligence americano? Dov'era il sistema di interferenza, di allarme? Se questa intera operazione era stata organizzata attorno a questo video che, guarda caso, è esploso in modo simultaneo un po' dappertutto, se dietro c'era un'operazione coordinata da frange islamiche e da Al Qaeda, dove erano i servizi segreti americani? Beh, non so se dire che la RAI si è sacrificata, che ha fatto la sua parte, ha rispettato gli ordini di scuderia, però alla fine è stata sacrificata. Ecco, vi avevo anche anticipato che il 2012 sarà ricordato per questioni medio orientali come l'anno in cui la Palestina è stata ammessa all'ONU come stato non membro. Questo capitò il 29 novembre scorso. Sentiamo. America 24, 30 novembre 2012. L'Assemblea Generale dell'ONU ha votato a favore del riconoscimento della Palestina come stato non membro, nonostante l'opposizione di Stati Uniti e di Israele. Una giornata storica dunque sotto molti punti di vista. Dal 74 la Palestina era già osservatore permanente all'ONU come entità e a questo punto diventa stato non membro, che è una formula, come dire, un po' ibrida ancora, ma che ha scatenato le piazze a Ramallah e in Palestina. Grande momento dal punto di vista dei palestinesi, una risoluzione che è passata con 138 voti a favore, dunque grande maggioranza, 9 contrari, 41 astenuti. Sentiamo Abbas. The Israeli aggression against our people in the Gaza Strip has confirmed once again the urgent and pressing need to end the Israeli occupation. Avete sentito Abbas, un discorso ispirato, ha cercato di evocare le più grandi aspirazioni del suo popolo, ha definito questo momento come un momento di straordinaria ispirazione per i palestinesi, ma per tutto il mondo arabo, per tutto Il Mondo Libero ha ricordato che ci sono continue costruzioni di insediamenti, li ha denunciati, ha parlato di occupazione militare, discriminazione razziale. Questa politica, ha detto, viola la legge internazionale e i diritti umani. Dunque un discorso anche molto aggressivo nei confronti di Israele, un discorso che non ha aperto, come forse avrebbe sperato la Gran Bretagna, cercando di dire, beh, cerchiamo un dialogo diretto, cerchiamo anche a questo punto di passare a trattative per la pace, oppure impegnarsi a non iscriversi alla Corte Penale Internazionale. Beh, infine, in questa pletora di storie, drammi, colpi di scena mediorientali, ce n'è stato uno che, devo dire, li ha superati tutti. È capitato di nuovo verso la fine dell'anno ed è stato, lo ricorderete, lo scandalo sessuale che ha coinvolto uno dei più grandi generali che l'America abbia mai avuto, il generale David Petraeus, che si era ritirato dall'esercito per diventare il capo della CIA. Ci fu un'avventura extraconiugale. Sentiamo. America 24, 12 novembre 2012. Major news out of the Obama administration today. General David Petraeus has resigned as director of the CIA. Si doveva parlare tutto il weekend di fiscal cliff. Il presidente americano, il presidente della Camera Boehner, venerdì sono intervenuti su quello che è il problema economico più serio del paese, ma invece improvvisamente si è parlato d'altro, si è parlato di uno scandalo sessuale, si è parlato delle dimissioni del capo della CIA, il generale Petraeus, il leggendario generale Petraeus, il quale ha avuto un affair con la signora Paula Broadwell, l'autrice di una sua biografia che si chiamava All In, The Education of General Petraeus, l'educazione del generale Petraeus. E che educazione gli ha dato questa signora, perché abbiamo ricostruito un po' quello che è successo. È un romanzo giallo, lo avrete letto nei giornali nei giorni scorsi, comunque ve lo riassumo perché resta uno degli elementi che hanno dominato il fine settimana americano, uno degli elementi che probabilmente domineranno questa settimana, perché poi Petraeus doveva andare in audizione in congresso. Cosa è successo? Che questa signora, una bellissima donna, un atleta, specialista di triathlon, una grande intellettuale, laureata a West Point, professoressa a Harvard di teoria militare, giornalista e scrittrice naturalmente, è andata embedded, cioè con le truppe in Afghanistan, per scrivere questo libro sul generale. E lì è successo il fattaccio. Fine prima puntata. Perché poi interviene l'FBI, ricostruisce questa affair e si arriva alla denuncia pubblica che ha portato alle dimissioni. Immediatamente è partita la teoria del complotto, chissà cosa c'è dietro, hanno cercato di far fuori Petraeus, l'ordine è arrivato dalla Casa Bianca, è arrivato da Hillary Clinton. Invece niente di tutto questo, come succede nelle storie più semplici, lo dico sempre, alla fine sono le storie più semplici, quelle più vere. C'era una seconda donna. Una seconda donna gelosa, gelosa della relazione di Paula Broadwell, o viceversa, la Broadwell era gelosa di una possibile relazione, non sappiamo se intima o di forte amicizia, di quest'altra donna con il generale. La donna si chiama Jill Kelly, 37 anni, ufficiale di collegamento militare del Dipartimento di Stato, al Central Command di Tampa, in Florida, dove Petraeus aveva lavorato per coordinare le operazioni al fronte, sia in Afghanistan che in Iraq, prima di andare direttamente sul campo. Cosa è successo? Molto semplice, come in un roman di concierge, le due donne hanno cominciato a litigare. La Broadwell ha cominciato a mandare delle email molto aggressive alla signora Kelly. La signora Kelly si è preoccupata, si è rivolta all'FBI. L'FBI ha fatto partire un'inchiesta perché c'era un funzionario governativo che riceveva delle minacce da un civile. Punto. La storia è questa. Dopodiché, perché è venuta fuori? Beh, perché l'FBI doveva fare delle verifiche, doveva capire esattamente cos'era successo. Si è accorto che la Broadwell aveva degli scambi di email non soltanto con questa donna, agente governativo, ma addirittura con il generale. C'era il pericolo che ci fosse una violazione della sicurezza informatica e quindi è partito un allarme rosso. Alla fine l'inchiesta ha concluso che non è successo nulla di grave, non ci sono attività criminali, nessuno ha manipolato i sistemi informatici consentendo a degli hackers di penetrare il sistema del Pentagono o della CIA, e quindi l'inchiesta in quanto tale si è chiusa senza incriminazioni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Devo dire, non c'è Natale senza neve e quindi al di là del fatto che abbiamo avuto anche delle giornate piuttosto calde a cavallo del Natale, vi ripropongo una canzone immortale di Frank Sinatra, Let It Snow. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!